più 10. C'è qualcuno all'ascolto? Hola. C'è nessuno? Canale 10, CQ. Attento, Geremia. Chi c'è sul canale 10? Valerione, ci sei in ascolto, Valerio. Attento, Valerio. Dunque? E quindi? Cazzo, se non entro io non parla nessuno. No, eravamo dal medico a pigliare una ricetta. Altro vicidaggio, io sono sveglio tutto il giorno me. Beh, diciamo da mezzogiorno a mese e poi, da. E io ho detto, ho acceso prima uscire, niente. Ho detto, se non entro io non parla nessuno qua. Ma cosa stai dicendo, cazzo? Sono le 4 che sono qua seduto io. Sulla giri trendi. Non è entrato un cane, non ho sentito nessuna chiamata, ho chiamato io un paio di volte, poi hanno fatto due colpi di portante con chi sono bip e morso, so anche chi è, e basta. Oh, non è entrato, te l'ho detto che se manco io non parla nessuno. Natalino, ci sei all'ascolto? E va, è fatta a Pignara. Allora vedi, Natalino rimane all'ascolto, non chiama, e perciò non parlate poi, ci volevo io, sono diventato l'animatore del canale. Sì, ma infatti non chiamo più, sono poco fa ho chiamato 6 volte Natalino, boh, a chi non rispondi? Perché è acceso appena adesso, lascialo cantare a Marco. Mi sembra strano a me. Scusa, se Natalino è sempre all'ascolto, se io chiamo a me mi risponde, io non ho fruscio, io ho chiamato CQ canale 10 e non ha risposto nessuno. E allora sono rimasto in ascolto, capito? Tutto qua. Oh Marco, ho cambiato la batteria all'MB più 5, più forte di ieri. Probabile, ma ieri era già abbastanza forte. Qual è quello grande nero? Dimmi di sì. Sì, sempre lui. No, perché prima ce l'avevo a metà, ieri. Adesso l'ho messo a 3, capito? Adesso è a 3 l'MB più 5. C'era la batteria completamente scarica, quella era 9 volts. Stava dando 4 volts e mezzo. Sì, allora è scarica, sì. Tu molto ne usi di batteria da 9 volt? No, io le batterie da 9 volt ce l'ho solo nel più 4 e nel più 5. E nel tunnel più 2 da tavolo. E anche nel tunnel più 3. Sai perché da Lidl ogni tanto portano le batterie, tutti i tipi di batterie ricaricabili. Io ho pigliato 2 batterie ricaricabili da 9 volt, carica batteria ce l'avevo già, le carico e le metto nel ZG da palmo e ZG da tavolo. Una volta che si scaricano non faccio altro che ricaricarle, in poche ore sono pronte. Quindi ho finito di comprare batterie per i microfoni, è più comodo, molto più comodo per me. No, io ho solo questi, adesso questo, il più 5 sto usando, il più 4, gli altri sono tutti conservati, microfoni, batterie non ce n'è poi. Gli altri microfoni lo sai, sono tutti ad alimentazione diretta dalla radio perché sono MC60, SM20, MD1B8, MD100, quindi sono tutti alimentati sia da Iesio che Kevo, da Icom, capito? Quindi non è che ne compro sai. Questa l'ho comprata ieri perché ho visto che la scarica e quindi l'ho comprata. Avanti Natali. Io batterie non ne ho. Uso questo qui e boom. Ecco, quello è alimentato dalla radio, lo sai. C'è proprio un circuitino, credo che sia o amplificato o precompresso, viene alimentato dalla radio, è molto comodo. Anche nell'altra simile lo stesso. È la radio che lo alimenta, c'è proprio un circuitino, si apre il microfono. Eh sì, tutto lì, dai. mi pare che la capsula ci sia giustamente a condensatore, è quella che dà la gamma migliore di toni, capito? Vabbè, anche quella normale di capsula, però i condensatori sono altrettanto buoni. Bene, bene, bene. E oggi, Claudio, a che ora ha smesso di lavorare? Oggi ho smesso alle 1.25, prima delle 2 ero a casa, alle 2.30 ero da Roberto, dal carrozziere, che mi ha cambiato, mi ha messo i fari nuovi alla 600. Ehi, ma 600, la nuova 600? Sì, quella non te la ricordi, quella che era da aggiustare, quella che avevo comprato, che c'era quel colpo, eccetera, fatta fare tutta nuova. E oggi mi ha messo i fari nuovi, che non erano arrivati, i fari davanti. Eia. Ah, bene, bene. E vabbè, qua purtroppo, sai, fine del mese, fine dei soldi. Beh, non sta lì, tu sì che mi capisci. Te credo. Eia, poi io ho anticipato qualcosina, quindi anch'io sono senza soldi. Per prendermi un caffè di fronte al medico ho chiesto se glieli davo la prossima volta, tanto sono sempre lì, quelli ormai mi conoscono, ogni 3-4 giorni siamo dal medico a chiedere medicine, quindi c'ho l'abbonamento lì. Quindi me l'ha già detto, non c'è alcun problema, me li dai quando ripassi. Quella giornata, comunque, ieri notte ha cominciato a tuonare e da lontano sentivano tuoni, uno dietro l'altro, sembravano cannonate, io ho staccato tutto. Però è stato, come dire, tanto rumore per nulla, tutto fumo, niente arrosto, dai, piovuto ben poco, almeno su Sassari. Su Sassari, però... Sassari, ma io non mi sbaglio, ho detto che c'era temporale, infatti è iniziato ieri notte e tu li sentivi in lontananza perché erano nella mia zona, capito? Santa Maria Cugina, Sbadesi, Trinità, tutta quella zona. Ho piovuto un bel, io stamattina quando sono uscito non stava piovendo, è iniziato a piovere intorno alle 8:30, 9:15, sino a metà mattinata, sino a mezzogiorno nella mia zona, capito? E poi c'erano un bel di fulmini anche, infatti ho trovato un sacco di casini, magneti termici a zero, impianti fermi e così via. Va bene, sì, domani ha dato, non insomma eccezionale, ma comunque niente pioggia, così, giornata come stasera, vai. Già va bene. Avanti, Natali. Ricazzati, sta preso. Vabbè, tu sei meteorologo. Fulmini, magneti termici a zero, ma cosa esiste? Vai, fatto una passeggiata con Fippo, vai, buona salute. Vai, fatto gli scavo con il tizio Trento, vai. E gli si bisogna far bene. Buonasera, Massimiliano. Io credo molto peggio, infatti, dice allerta arancione, ho detto babà, questa è la volta che l'antenna ci scende il fulmine e me la scioglie. Invece, meno male, su Sassari poco niente di fulmine, almeno erano lontani, sentiva che erano lontani. Ah, ce l'ho detto, lui non sa manco cosa vuol dire, ma niente ottemico, cosa dice, è un escavatorista, cosa... Ah, no, a noi basta una fesseria, soprattutto i sollevamenti, basta una fesseria, scattano i magneti termici e si bloccano, e tracimano, vabbè, sono i bypass qui, comunque, non parliamo di lavoro. E quindi cos'è che vuoi, dimmi, cosa dicevi? A me non mi serve, cosa mi vuoi dare? Qualcosa già mi serve, fatto un quattro l'occhietto. Sei tutto a frusce, gatto, buon gattino che so parlascolta, mettiti una colonnina, gatto. Non ho parlascolta, guarda. Ma io sento un fischio sotto, giove ticca, voi lo sentite? Me lo trovi. Ah, erano 10 e 2 frusci, a posto, sì. Cappa brioche, guarda adesso. Ah, sì, vabbè, sarà. Ma lui si intende di bene, di cose, di martelli, di altre cose non se ne intende, no? Avete affavitato in due. Ha chiesto proprio forte, guarda adesso. Adesso va bene, ottimo per la truppa. Sì, più forte è che sono con un vatto. Io con me, vatto. con 10 watt. 4. Ma io prendete tutti questi numeri alla toccare, per forza. Oh yeah. Beh, 4 sono all'apparecchio. Alla lanterna ne usciranno 2 con tutti questi metri di cavo. E non è quanto ne esce? Qualche mille va. No, ma tu hai poco cavo, Natali. Che cavo hai? Non me lo ricordo. 213. Oh, tu ne hai poco, poi io ne ho 50 metri, 50 metri. Sì, ma sei più in alto di me, c'è tutto. Adesso mi rompo le balle, faccio prendermi, faccio con l'antenna, con la canna da pesca. No, ma cosa credi guadagnare con la canna da pesca, Natali? Quella è pur sempre da 5 ottavi, quella che hai con i radiali. E che passa, cacchio. Comunque, anche se sono aperto per Alghero, per esempio, mi pare che quando, come si chiama, Valerio, il liscio gli arriva, mi pare, 9 a Claudio, e qua invece è mezzo bassino bassino, vero Claudio? È sempre distratto Claudio, è un po' di tempo che è distratto, parli e sta facendo altro. Lascia stare da parlare con Filippo. E magari sente Filippo che gli risponde, no? Oia, oia, vabbè che io parlo col gatto, il gatto non può parlare, per fortuna, se no chissà quante me ne direbbe. Vabbè Natali, niente di niente, oggi è bella, bella giornata mi per andare. Ma non ci vado, mi hanno anche proposto di andare a Lumache stamattina. Dica. Caspita, sta passando sempre di più il sole. Tramonta alle 7.28, poi mi pare il mese prossimo, credo che sia il mese prossimo, torni indietro di un'ora o avanti di un'ora l'orologio e farà buio alle 5. Mi devo abituare, adesso ero abituato a molte, molte ore di luce, dopo diventerà buio presto. Vabbè. A chi piace più la luce, tardi e più il buio. Sono una cosa allucinante. Cosa c'è? Cosa c'è? L'altra volta con questo aumento la pressione mia moglie, che è mezzo difettosa. Già gli ha fatto difetto stamattina, adesso non si apriva, e giù mi scoppia tutto. Allora vedi te la posso curare la roba come. Allora con una tratta più. E occhio che non salti in aria, davvero? Basta che funzioni la valvola di scarico, la valvola di sicurezza. Sì, vabbè, ma non sta funzionando come deve funzionare, già gliel'ha fatto stamattina. Adesso anche stasera, dopo che ti ha aperto la pressione. A mamma ha rubito le balle, la biglia te l'ha un po' alla cone. Capo di moglie abbassa per lavorare. Abbasso ancora questa radio. Vedi allora, Marco, come gli ho messo la batteria nuova. Già c'è la metà, ieri era 8. Adesso lo metto a 3. Guarda a vedere Massimiliano se va meglio. Allora, a 4 puoi provare. Così a 4, stavo gridando però, eh. Bene va. Abbasso per. Ancora. Cazzo, radio bus a 3 mi è arrivata a metà a 4. Così a 3, bene va. No, 3 e mezzo. Va bene, 3 e mezzo. Ecco, giudicato 4, non se ne fa vedere più. Bene va. Vabbè, allora poi avete sbagliato, ce l'ha bene. Sì, importante non farli, quando parli a voce alta sei tutto. Sì, vabbè, perché la mia voce è quella, non c'è niente da fare. Ok, allora lasciamo stare così, a 3 e mezzo, va bene. Aspetta qua, io ti sto dicendo, secondo me come vuoi, forse tu lo vuoi lasciare a 4, ma sono quello meno, ce li hanno già, che io peli nella lingua non ho, ce li ho da 3 parti, quelli che mi sono rimasti. Aspetta, ma se non mi pongo le piccitti, non vengo lo gojo, ecco. Così a 3 e mezzo, 3 e qualcosa, bene va. Oh, allora secondo me c'è perfetta, ho indicato poco, come dice Marco. Va bene, lasciamo così, basta dire le cose, noi le facciamo. Natali! Oh, yeah. Cosa di noi? Sapessi. Cosa va, ecco io per crocifisso. Io sì, però mi fa male il fianco e dalla volta sono caduto all'ufficio di collocamento e mi fa male il femore. Dici emozionato. E cosa ne va? C'è un po' i tuoi picchi. Marco, tu mangiamo, stai. No, ancora no, ancora è presto, e sa quando a mangiare. Beh, allora, certo, qua è presto, sono appena le dita, la volessi. Sveglia. Non ce l'ho leviato sto porco vizio. Pazienza, no, noi già campiamo lo stesso. E poi ricorda, uno mangia quando ha fame, no a orari. come qualcuno, per esempio a luna certi uomini devono mangiare, se no ne scende il cielo. Io mangio quando ho fame, se ho fame presto mangio presto, a luna, se non ho fame mangio tardi. Tanto lo stomaco già digerisce, basta pigliarsi un bicchierino di amaro, ci passa tutto per lo stomaco. Ma nella parte tua non ne ha fatto perché Massimiliano qua dove stai lavorando tu? Guarda, la parte mia proprio dalle 8:30 alle 9:15 aveva già smesso. Poi l'altra passatina gatto leggera, leggera, e poi avevo un calcolo intorno ai 22 gradi, era un caldo allucinante stasera. E invece da me, nella zona di Santa Maria con le Zoverie, ha iniziato da ieri notte, mi sto facendo il mio collega perché abita lì, quei tuoni, quei fulmini che sentivo in lontananza non in quella zona, e ha fatto davvero un po' di casotto là. È iniziato a piovere forte verso lo stesso 8:30, 9, però ha smesso che erano più delle 11:30, sempre l'MLM, sempre andende. Ma secondo me era zona, capito? Era zona, da qualche parte scendeva l'aria, guarda se era tranquillo. Adesso domani ha dato tempo variabile, così, come poteva essere stasera. Ma buda, ha mancanizzato un po' con i dumbini. Avanti Marco, riprendi. Ehi, meglio che non abbia fatto troppo casino però, perché io temo troppo i fulmini. Poi questo palazzo, questi minchioni non hanno voluto fare la messa a terra. Non abbiamo niente noi, tutto il palazzo non è a regola. Non ci ha messo a terra, lo voleva fare il vecchio amministratore, poi c'è stato di nuovo un cambio d'amministratore, perché si è rotto le scatole quello, proprio ne aveva le balle piene, scusate il termine, ma... E quindi tutto da capo, siamo tutti a rilento qua. Va bene, meglio così, già era bella la serata stasera comunque, volevo fare delle prove di antenne UHF, ma non... Pazienza, le farò un'altra volta. Provi di vivare, che piglia della patente e poi parli con me. No, le bande amatoriali non mi interessano, non mi interessa. Poi lì bisogna stare tutti posati, CCC, quelli del baracchino dove poi ogni tanto scazziare un po'. No, devo provare. Prima volevo misurare stazionari con la NR770H, sia con l'attacco a portiera, no, laterale, sia con la base magnetica. E poi vedere dove rende di più in ricezione e trasmissione. Vabbè, la risposta la so già. Sicuramente rende più con la base magnetica al centro capozza, poi più in alto anche. Volevo andare a Piazza delle Segni oppure... No, a Piazza delle Segni va più che bene, bello molto libero, capito? E magari ti affianchi alla camionetta delle scomposte, così le fai con loro le prove. Figa! Provi, aumenti la potenza. Te le immagini fare le prove e poi ti bussano al finestrino e vedi il furgoncino? Io dico che mi viene un infarto. Fai così, vai, fammi da 27. Adesso sta i gozzi all'altri. Riprendi Natali. Ma domani non hai capito che non si fanno queste cose, gai pittina. Io che tu fuori di video continua sempre a far vedere matte settori, poi sempre quando ci sono io. Riprendi Massimiliano, riprendi. Antenna VHF, vibro vai, macchina etta. Gabugiano, vai tu. Sant'Antonio via. Riprendi Massimiliano. Ehi là, riprendo, mi stacco 5 minuti, vi ascolto che sto facendo cosa. Mi stacco un secondino, comunque sono qua. Ascolta, ma e poi se riuscite a capire se quello di Gianni è uguale a quello tuo alla radio? Sì, è uguale, è la fotografia che dà sul verdolino, però è uguale. Anche stessa potenza. E diciamo che lui era sottoalimentato, poi bisognava misurarlo e vedere un po'. Non so se ha terapia, però vuole misurare. Tu fa trovare, lo porti qua e lo misuriamo subito. 5 minuti e si rende conto se è uguale al tuo. Per me non è uguale al tuo, perché come ha fatto la prova, troppo basso era il cambio di potenza. Il tuo manco scende proprio di pochissimo. Ho fatto con Valerio io la prova, da un minimo al massimo. Più picchi di modulazione c'è il tuo, sicuramente. Vabbè. Va bene Massimiliano, dai, siamo qua. Avanti Marco, riprendi. Eia. No, ma non tanto per l'antenna, mi interessava vedere la resa, ma anche per i radioattori, cioè per ascoltare i radioattori, se la metti sul tettuccio con la base magnetica sicuramente prende meglio anche ricezione. Io quando esco fuori me la porto, quando apro la tamona, quando vado in giro, e vedo che è abbastanza trafficato il 145 6625, quello del ponte lì, e poi anche ho risentito 430 100, poi sento spesso il 145 525, insomma già ce n'è traffico, dai. C'era un periodo che forse stava diffondendo il PMR e non sentivo quasi più nessuno, poi una volta finite le prove qualcuno è tornato nelle normali frequenze in chiaro, meglio così, meglio per chi ascolta. Va bene, io sono sempre in ascolto, però è così, lo sai che sono sempre a rischio. Vabbè, comunque, evita, quando sono io di parlare di queste cose, a me poco mi interessa. Avanti, Natalino. Eia, io ne parlo mai di queste cose. No, assolutamente no. Ma Marco è condizionato l'Antonio Pomponio, capito? Vuole mettere un ripetitore in PMR. Ma di che fare una cosa del genere, ha finito il gampaedo. Vedi, Claudio, tu non sai nulla. Il Parrot è legale, l'importante è unirlo a un apparato con mezzo watt. Quel Parrot non è un ripetitore vero e proprio, cioè tu parli su quel canale, lui registra, sempre su quel canale rimanda la tua voce registrata, tutto lì. Non è un ripetitore con lo shift, no. Il Parrot è sempre stato legale, l'aveva detto anche una nota della... del Ministero dello Sviluppo Economico, a patto che sia mezzo watt l'apparato, ripeto, poi chiaro che se ne metti 4 o peggio di più, allora non è un problema di Parrot ma di apparato. Siete tutti legali, siete in PMR, siete tutti legali, ma come hai avviso tutte le registrazioni, tutti i cassati insiditi in PMR? Che c'ha la direttiva, che c'ha 50 watt, che c'ha 20 watt, che ne ha... Ma Marco, chiudiamo il discorso, se no sai, poi io mi cazzo, non me ne frega niente, fate quello che vi piace. Parrot, tira campana, ok? Noi a livello solo sperimentale possiamo fare prove sia con le colinche sia con cose del genere. Per il resto ci vuole sempre la licenza. Vedi l'RU4 che è stato fermato proprio perché ancora non erano arrivate le licenze. Adesso sono arrivate le licenze e l'hanno riattivato, come fanno tutte le persone serie, capito? Però mi pare che non la serietà venisse a bogo. Comunque, a me non mi interessa. A me non vengono a bussarmi la porta e a registrarmi perché sono né fuori banda né uso. Come vi ho già detto, io in PMR non ci entro, non perché non ci voglio entrare, perché non ho le radio omologate che mi consentono di poter trasmettere in quella banda. Ok, tutto qua. Mentre invece gli altri sembrano che tutto gli è dovuto, a tutti, tutti con l'antenna in altra gabituria, tutti con veicolare, tutti con portatili non omologati, e di chi ci vuole biazzi, cambio per la buona nel culo, per la biglietti, vai Natalino. Riglia, stavo parlando con la 50, mi dovete scusare ma devo interrompere per un pochino. Gappa. Vediamo intanto se c'è Valerio ad Alghero. Attento, Valerione. Ma non c'è oggi. Sta piovendo, quindi la giornata era brutta, a capocaccia non c'è andato. Ma da casa già poteva entrare, però non mi risponde. Vuol dire che io sono già alle 7.25 sono. Ma tu già pranzato, No, negativo. Ti dirò che non ho fame convinta, proprio per niente. Potrei anche non pranzare. Potrei pranzare alle 8 e boh. No, t'avevo chiesto prima. Valerio, da Liscio, quanto ti arriva? 9. Liscio, Valerio arriva a 9. Quando attacca è tra 9.10 e con picchi anche a 9.15 arriva a volte. Cazzo, figurati. figurati, aspetta. Vedi le posizioni. Natalino non lo sente più. Io lo sento tipo 5, 6, adesso non mi ricordo, credo 5. Ma quando attacca, mamma mia quando attacca. È molto, c'è molta differenza, dai, quando attacca. Ciao Natalice, devi staccare, dai. E per quello io ho detto, ma sto facendo già buio. Adesso le 7, credo che sia tramontato il sole, mi. Sì, non c'è più ombra di sole. È già tramontato, porco un giuda. Pensa che fra un mese sarà buio presto. Quindi chi deve fare roba di antenne sui tetti, per esempio, lo deve fare presto, e se no il pomeriggio già scende il sole. Ah vabbè, non è il mio caso. Non è il mio formaggio. Ehi, guarda, io ti dico una cosa. Preferisco che faccia buio prima e la mattina quando esco ci sia già la luce. Ma rotto e balla. Al buio presto, io esco alle 6, al buio presto. L'ho dovuto mettere i fari nuovi alla Troletta, alla 600. Perché le parabole erano un po' consumate e non si vedeva un cacchio, capito? Venerdì, oggi cos'è? Oggi è martedì, sì, venerdì. Venerdì ho chiamato un collega di Cagliari, me li ha presi a Cagliari perché qua costano un pacco di soldi che sono, non sono quelli con, sono in vetro, capito? E poi sono regolabili dall'interno, c'è un motorino per la regolazione. Mi sono fatti prendere a Cagliari e sono arrivati oggi a Santa Maria Covinci, col corriere, a casa del mio collega. E li ho caricati in macchina, sono passato a casa, ho salutato, ho mangiato un boccone e due mesi ero già da Roberto, me li ha piazzati. Capito? Piazzati, regolati e tutto. Adesso vediamo domani mattina se si vede di più. Ah, perché io poi faccio la strada di San Camillo, no? Per andare a Sorso. Con la strada è così brutta, ma brutta, non c'è una striscia per terra, no, la cunetta non è tratteggiata, non si vede un accidente. Se sta piovendo rischi di scenderci in cunetta, davvero, Ma la strada è così brutta, io non capisco perché no, non mettono due strisce bianche giusto a delineare la cunetta. Cazzo. No, stai attento, se incroci un'altra macchina lì, che è tutto curvo e ti fa in cunetta. Eh sì, che ce l'ho presente. Qua fanno tutto alla carlona. Tanto la colpa la danno sempre al guidatore, che trovano scusa che era veloce, che non era attento. Farabutti. E un'altra giornata se n'è andata. Quasi da. Aspettando giovedì per comprare, c'ho solo qualche, una ventina di euro, di 20-21 euro sulla carta, e devo pigliare quel caricabatterie alla Lidl, lo stavo aspettando da mesi, e stavolta non me l'ho perso, non arriva mai giovedì, porca miseria, hanno portato un bel di roba francese da Lidl. C'erano tutti quei formaggi francesi che piacciono a me, il Camembert, il Petit Brie, il, come si chiama, il Bretagne, mamma mia quanti ne hanno portati, tutti buoni, li ho assaggiati quasi tutti, sono quelli a pasta molle, che hanno quella specie di patina bianca sopra, si mangia tutto lì, tutto. Sì, purtroppo ci sono dei contatti, ci compro giusto il caricabatterie e poi il nulla. E poi dobbiamo aspettare l'uno, che mi pare sia martedì. No, palle, l'uno è domenica. Il 2 è lunedì. Quindi mamma ritira il 2 e mi restituisce i soldi. Ma che cos'è? Che caricabatterie sono questi? Piccolino, piccolino, digitale, con display, carica batterie per auto e moto, 12 volt, cioè con le batterie di moto che hanno pochi ampere mette 0,8 ampere di carica, automaticamente, con la batteria di macchina mette 20 un amperaggio più alto per caricarla, vai. Siccome quello grosso che avevamo noi, vecchio di 30 anni, credo sia rotto perché non dava segni di vita. E allora prendo questo, guarda, io lo conoscevo già, l'ho aspettato per mesi finché l'hanno portato, questa volta non mi scappa, per la moto soprattutto, perché prima o poi la metteremo in auge, magari con la tredicesima la metteremo in auge, ci sai, assicurazione, revisione, il bolli arretrati, vabbè, quelli me li pago io, due bolli arretrati, eh. Insomma, prima o poi, se no è inutile che l'abbiamo comprata, eh. Io voglio andare in moto, c'ho un bel caschi, c'ho, per me uno, due, tre caschi jet e uno integrale anche. L'ho preso perché mi piaceva, colore come la moto, no, silver. Anche mamma ha i suoi caschi, eh. Quelli che ti avevo fatto vedere, te li ricordi quelli belli jet? Ecco, mamma ce li ha uguali, però anziché essere L e XL. Più ne ho uno di cacca, però omologato, che funziona sempre, e più l'integrale che l'ho usato una volta l'ho usato. Però è bello perché, sai, quando c'è molto freddo in inverno ti tiene caldo. No, io ne ho uno, sì, così da città, per il motorino, l'altro con la visiera. Ti ho pizzo, quando esco fuori. No, già ci vogliono i caschi. Ehi. Già va bene, non c'è problema. Lo stavo dicendo, ah, ecco, questi caricabatterie. No, io sono andato da poco all'LD perché ho visto, ogni tanto mettono i volantini, c'era roba interessante, c'erano dei saldatori, quegli affarini per quando saldi, per mantenere quelle morsettino, quelle cose. Sono andato, non ho già avuto più nulla, tutto ci stanno buttando. Lì a periodo, bisogna aspettare tanto il volantino sicuramente ti arriva, no, dei Lidl, e ti fa vedere le offerte della settimana entrante, no? Questa volta hanno portato un bel di roba per la macchina, il caricabatterie è piccolo, è di tipo switching, quindi non ha trasformatore grosso, è molto comodo, lo lascio in garage, tanto la corrente c'è, ma lo carico direttamente in garage. Poi quando finisce la carica fa una carica di mantenimento, no? Di pochissimi milliampere, tanto per tenere la carica. Poi hanno un bel di roba per la macchina, il cliche pneumatico, un bel di roba. Se ti interessa qualcosa dai un'occhiata, la cinghia di pensionamento per trasportare carichi. Invece l'altra volta avevano un bel di attrezzi, trapani, mole, non so cosa erano. Guarda, hanno cose carine, ed è tutto fatto in Germania, anche se tu compri roba da mangiare tipo couscous, roba araba, tutto fatto in Germania, è roba buona anche, perché io l'ho comprato, il couscous e il tabouleh ed era buono, invece il couscous confezionato preso da Auchan una volta era uno schifo di sapore, ce l'ho buttato da Auchan, invece da Lidl, poi ha tante cose sia da mangiare, sia di elettronica, la stazioncina meteo col sensore esterno l'avevo comprata, sempre da Lidl, guarda, un saccaccio di roba utile, e io dovrei conservare i soldi, invece di spendermele subito, le dovrei conservare ogni tanto quando c'è un'offerta di quello che mi interessa, ah, poi devo comprare per i PMR veri, no, quello che volevo passare a te, proprio omologato, devo comprare batterie stilo ricaricabili e batterie mini stilo ricaricabili, così mi faccio tutte le batterie per il PMR e me le faccio nuove, perché quelle di serie sono ormai andate, non caricano più quasi, e uno te lo passo omologato, qui ci facciamo il canale nostro, se dobbiamo fare prove nessuno ci dice niente. Beh, se è omologato problemi non ce ne sono, io purtroppo non ne ho omologati, Marco, cioè Voxion, ma non sono omologati per parlare lì, capito? Quindi se dovessi trovare un omologato, due chiacchiere me ne posso fare anch'io, allora i discorsi cambiano, ma io non rischio per fare due chiacchiere in PMR, come qualcuno. Va bene, vediamo se è rientrato Massimiliano, ha detto si doveva allontanare. Massimiliano, sei rientrato? No, mi ci puoi portare le cane adesso, no? Aspetta, è già buio, vabbè, ma tanto non devo uscire. Poi quelle prove già le farò, perché mi serve un ponte lontano da ascoltare, tipo il Cisar, il ponte 431-2375, quello è abbastanza lontano, lo posso posso fare anche da sotto casa le prove di ricezione e sicuramente migliora tantissimo. Oh, poi non avessi le antenne, la SG 7009, quella è grossa, mi sembra una spada, lunga 1,53 m esattamente. Quello è un rendimento altro, ma è dura, rigida, è un barragione, Però ha un bel guadagno in ricezione. Non è originale, però è la copia della Diamond. Comunque le originali funzionano molto meglio, c'è poco da fare. Bene, io non c'è nessun altro, Massimiliano, Valerio, non c'è nessun altro. No, io ho l'originale della Diamond, la NR770N, VU per la macchina. E poi ne avevo una lunga, però un'altra corta B10M della Comet, l'ho data a Gianfranco che le serviva, che la sua c'era rotta. Vanno benino con le antenne, vanno bene. Però tante macchine non le metto, c'ho la base magnetica, può capitare qualche volta, l'ho messo, ma se no non mi interessa. Assolutamente. Ma usa lontano, quello è linkato a Villanova Monteleone, capito? Quello è linkato a Villanova Monteleone per la Sardegna. Ce ne sono passaggi in quel lì, in link nazionale, perché siamo a link nazionale. È linkato mi pare 3-4 volte. Per la Sardegna e Villanova Monteleone, a me mi arriva con l'antenna in gomma, figurati. Col portate e col Vox, lui sì, mi arriva in corrente nei gomma, fondo scala. Anche vabbè, quello che c'è a Sassari, nell'RU4 la stessa cosa, perché è al grattacielo, quindi quello che devi provare è città e lontananza da Piazzale Segni, se fai le prove, ascoltare, quello che c'è a cosa. Se ricevi Monterrasio, l'R0, Piazza dei Segni, vuol dire che l'antenna funziona bene, perché è un po' sordo, capito? È un po' sordo, 145-600. Poi a 750 è Oristano, anche quello. Se tu senti quelli, vuol dire che l'antenna sta funzionando bene. Non faccio le prove così per vedere se funzionano bene le antenne, mi metto sempre su quei punti che sono quelli più lontani, capito? Che il bip avanti? Quale bip? Ma il mio è? Ah no, no, no, scusa, ho sbagliato. No, mi sembrava un altro bip. Eia, no, non ci badare. Era già da quello. Adesso vedi comunque la gente come, non solo la gente, ma anche i venditori se ne fregano di informare la gente. Per esempio ho letto su Roger K, no? Che questi camperisti, no, prima avevano i PMR original e dice che dopo 200-300 metri da dentro il camper non prendeva più e volevano qualcosa di più performante. Allora sono andati da un negoziante e hanno comprato tre Baofeng GT3, quelli è diciamo un nuovo modello, GT3, convinti che fosse libero uso. Cioè il negoziante non gli ha detto che ci voleva la licenza per le bande naturali e loro se li stavano usando in camper così naturalmente e uno li ha avvertiti, dice avete fatto, dovevate fare una scelta più oculata, perché in caso di controlli, cioè un normale controllo di polizia, ve li vedo in mano dalla tastiera, dai, si vede poi che non è un PMR. È un casino. E appunto questo ragazzo ha detto che il venditore non le ha minimamente avvertiti che era roba naturale. Guarda, pur di vendere, non ti dicono nulla, l'importante è vendere. Io per esempio, io lo so che se uno se lo porta bisogna usare una discrezione maggiore. Bisogna usare una discrezione maggiore, ma uno picco pallino va dal negozio, compra, poi lo fermano, e questi? E cosa gli dici? Non sapevo nulla. Ma guarda, io mi ricordo i primi anni che sono andato in fiera, ero già da rematore, quindi ti parlo del 94, forse 95, sono diventato rematore nel 93, ero proprio a zero. e andammo in fiera tutti assieme, tutta la combricola, insomma, che tu conosci. La prima cosa che mi avevano detto, mi ricordo, perché io mi avevo portato, siccome dentro la fiera, no? Quando siamo in tanti, eravamo più di una decina, eravamo tanti, e avevamo deciso portiamoci il VHF, così ci sentiamo dentro la fiera nel caso qualcuno si sposta, si perde, eccetera, no? Giusto come riferimento, ci riteniamo appesi, no? Siamo radioamatori. La prima cosa che mi avevano detto, mi ricordo, era portati la licenza e la patente appresso, perché dentro la fiera c'è la polizia postale in borghese. Ok, se ti vede parlando col VHF ti ferma e ti chiede i documenti, capito? Tu immaginati, ma ti sto parlando di anni e anni fa, c'è sempre stato questa cosa. Mentre invece ad una festa di paese, che infatti aveva interpellato a me per vedere cosa poteva fare, perché l'avevano disciquitato la radio, il portatile, e tra l'altro l'avevano messo anche una bella multa, poi era riuscito, insomma, a fare un coso, insomma, un patteggiamento, così, chiamiamolo così, e gliel'avevano abbassata di tantissimo, era 1500 euro di multa. Ad una festa di paese, ad una persona che io conosco, nella zona di Cagliari, provincia di Cagliari, c'era questa festa di paese e gli organizzatori, anziché avere, come stai dicendo tu, un PMR, un giocattolino da niente, erano tutti con questi Boafeng, tutti, qualche 5-6. Ok, molti sono riusciti ad evadere quando sono accorti che la cosa era già un po' messa male. Questo ragazzo poverino è rimasto lì, l'hanno ingessato, la polizia postale in borghese, l'hanno ingessato, 1500 euro di multa, da 3-6 mesi di galera, l'hanno condannato, poi non so come è andata a finire perché poi non siamo né più sentiti né più visti, ma devo riuscire a trovare il numero, a chiamarlo, a vedere come era andata. Mi aveva detto però che praticamente quando era uscito il processo aveva cercato, insomma, l'avvocato di patteggiare, che lui appunto non sapeva questa cosa, gli avevano prestata eccetera, quindi avevano abbassato la multa a 300 euro e la pena gli aveva dato 3 mesi con la condizionale. Ma cazzo, ma porca puttana, ma uno deve rischiare di andare a finire in galera per usare queste cagate? Prenditela la licenza, te la prendi, capito? Oppure usa una cosa che ti compete usare. Cosa ti metti a usare queste cose? Questo per farti capire come era prima, ma come sempre adesso. Infatti molta gente, sino a quando non ci mette la mano e si brucia, capito? Non ha compreso cosa vuol dire con le nuove leggi che ci sono. Seia. Perciò dico, ci vuole molta discrezione, cioè non te lo devi far vedere fuori, attaccato alla cintura, appoggiato sul tavolo, come fa Pomponio. Quando andiamo al bar, c'è sempre il portatile, lo mette lì, appoggiato. Invece hanno visto di tutto, hanno visto cacciatori col Baofeng alla cintura, Pagnini col Baofeng alla cintura, portieri, di tutto di più, proprio ce l'hanno in vista e non sanno quello che rischiano. Io magari lo so, perciò bisogna avere occhi da tutte le parti, ma non stiamo facendo niente lì. Poi io, già lo sai, entro, li saluto, due paroline, ma poi non ci sto mica tutta la sera, no? Non ci sto tutta la sera, certo. Però appunto io so che occhio alla penna, com'era quel film, occhio alla penna. C'è gente proprio che te lo mette in vista, e certe guardie giurate anche, in certi, non qui, magari letto sui forum, dice: ah, noi siamo guardie giurate, quindi possiamo usare tutto, lo sai. Così mi aveva detto un cacciatore, sai dove? Hai presente a Scala di Ciocca c'è quel circolo, no? Arrivi alla fermata del tram, vai in quella viuzza, c'è il circolo, no? E volevano i Baofeng, volevano dire 10 Baofeng tutti una volta. Ho detto: ma guardate, ci vuole una licenza particolare, una, no, gli ho detto una patente per usare. No, ma noi siamo cacciatori, possiamo usare tutto, ho capito la mentalità che hanno. Infatti io ho pensato, col cazzo che ve li ordino. Perché la gente ti ha detto, fino a quando non tocca con mano si bruciano. Capito? Io ho sempre detto di usare la testa. Ognuno a casa sua può fare quello che vuole, avere quello che vuole, però usa la testa, stai zitto. Non spifferarlo ai 10-20, capito? Perché ho assistito, mi hanno fatto sentire una registrazione a me di gente parlando in PMR e sto usando 20 watt e questa è la direttiva, l'ho piazzata ieri e questa è l'antenna nuova e questa me l'ha fatta Tizio e questa me l'ha fatta Caio. Ci sono tutte le registrazioni. Purtroppo la gente non è brava come si pensa, cioè quello cattivo è disegnato in gesso, capito? E bisogna stare molto attenti. Ecco perché io ti ho detto prima e ribadisco adesso che io in PMR, se non ho una radio omologata che mi consente di fare due chiacchiere, io le mie radio non le uso nelle radio nelle antenne, perché sono delle frequenze dove bisogna essere abilitati con determinate cose, e quello è la legge, è quella e quella deve essere, capito? Ma è possibile che uno arrivi a fondo scala da Rulati Dotti e Noghi gruburtate, eh? Ma stiamo scherzando. Dai, non facciamo ridere che non siamo stupidi. Va bene Marcoli, io ti lascio perché vado a portare il cane, dai. I discorsi sono belli, però poi iniziano a puzzare, quindi io già me ne sono uscito da queste cagate, non ci voglio rientrare. Ognuno faccia quello che vuole. È grande, è vaccinato, ma in effetti, poi quando si bruciano, rimangono bruciati. Ok. Ci sentiamo, stammi bene, a frappè, ciao Natalizia, si all'ascolto, ciao, ma ci vediamo qui che fosse su 10, ciao. Io stavo ridendo per la cosa, mi ricordo la telefonata lì, quella volta la telefonata, guarda, beh, quando scala la pastorre. Va bene Claudio, dai, fatti questo giretto. Non so se ci sarò dopo, intanto Natalino non c'è, cosa non c'è, siamo solo noi. Meno due disperati. Comunque nonostante tutto la gente non rientra, siamo veramente, non è più andare al mare, cosa, la gente non rientra, non ha più voglia, non vedi che sono tutti a dito, eh? Siamo sempre i soliti che entriamo, anche Giulio entra, Valerio, insomma, Coso, Massimiliano, ma c'è troppa gente di prima che non sta più rientrando. C'è nulla da fare. Va bene, va, sono sempre i soliti discorsi, dai. Alla fine chi c'è c'è, chi non c'è è buon viaggio. Ciao Claudio, buona passeggiata, ciao, buona serata. Io dico pochi ma buoni, io ho Marco, non mi interessa niente. Io ci sono sempre e ci sarò vita naturale durante, da tutte le parti, perciò non ha fatto un della camera. Io guardo a me. No, vabbè, in quel contesto lì comunque sono andato a copertura totale. Ho detto, no, guarda, la colpa è la mia perché stavamo facendo delle prove. Anch'io volevo vedere sino a che distanza potesse arrivare un portatile con PMR. E quindi lì sono andato a copertura totale. In altri contesti, quando mi hanno chiamato, ho detto, fa una cosa, in Gessari, a me non me la fotti nuda. Capito? Vabbè, dai, ci sentiamo se coincide più tardi, se no a domani. Buona serata a tutti, ciao, che è già tardi. Ciao, buona, poi buon tutto, buona serata, buona cena, ciao, ci sentiamo, ciao. Ciao.